A pane e burro rock and roll, sono le 7:31 ed è decollata l'astronave denominata pane e burro rock and roll, direzione 9 del mattino. Fortuna che c'è Mister Trombetti. L'influenza ci distrugge, ma il rock and roll ci tiene in piedi. Puntata 21. Vado a salutare Metal Chef da Prato, che si chiede, si domanda: ma le patenti alla fine le avete date a tutti o solo ai meritevoli? In realtà a tutti, ma però il test era molto semplice. Poi parliamo anche del test, più tardi. In un post scriptum ringrazio l'amico di Prato che ci fa sapere che ha appena visto un tizio fare colazione con panino alla porchetta e cappuccino. Molto rock, sì, effettivamente molto rock. Grazie per aver condiviso questa immagine meravigliosa con noi. Adesso sì che possiamo affrontare questo lunedì con una marcia in più. I Rainbow nelle vostre orecchie. Ah, Street of Dreams. La strada dei sogni, no? Che m'abbiocco sul mixer con la strada dei sogni. Devo pensare ad altro, non ai sogni. Però senza Lampione Crepuscolare io non credo di farcela, ragazzi. Baby. Pane, burro e rock and roll, un occhio aperto sulla grande storia del rock e, come al solito, tentiamo di non farci scappare quando la data nella quale vi stiamo parlando ha segnato un tassello nella storia del rock. Era il primo ottobre, come quest'oggi, però del 1970. Sì. Lei c'era già, Free? Ma naturalmente, sì, abbastanza. Sì, sì, e già seguivo e già avevo i miei idoli, tra i quali anche i famosi Rolling Stones, le pietre rotolanti. Ed è proprio di loro che andiamo a parlare, perché era il 70, si esibiscono al Palalido di Milano, nei pressi dell'impianto sportivo si susseguiranno scontri con lancio di lacrimogeni e 63 giovani arrestati. È la prima volta che accade all'interno di un concerto in Italia. Sì, questo fu l'inizio di una lunga serie di contestazioni che, tra l'altro, gli artisti stranieri, anglosassoni in generale, inglesi o americani, non capivano, quindi avevano il bel da spiegare. Abbiamo ricordato, sì, i Led Zeppelin al Vigorelli. Sì, Santana che promise di non suonare mai più in Italia, di non tornare mai più in Italia, visto il lancio dei lacrimogeni e dei fumogeni, ma ripeto, questi artisti non capivano se la cosa, la contestazione era rivolta a loro, se la cosa, certo, li riguardava personalmente o se invece era altro, e naturalmente non si faticava qua in Italia a spiegare che la contestazione era contro il caro musica, il caro biglietto, era per la musica libera, gratuita, insomma si faticava un po' a far entrare in testa questi artisti stranieri le ragioni di tanta contestazione. Erano altri anni, era l'Italia del 1970, l'Italia della contestazione. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Such a tracco. Rolling Stones, Ruby Tuesday, diretta numero 21, Pane, burro e rock and roll, diretta numero 99, vedete voi, qua con i numeri non ci sappiamo mai fare. C'è l'Ariele ad augurarvi il buongiorno con il Prode Spadino e ovviamente il buon Roberto Fricantoni. Questa è la squadra, almeno la squadra che sentite. Poi ci sono dozzine di persone che lavorano dietro le quinte solo per voi. I messaggi di quest'oggi, come forse è giusto che sia, sono tutti dedicati a questa giornata, a questa nottata appena passata. Gli amici milanesi che hanno avuto il piacere di venire a prendersi la patente da vero rocker, chiedo scusa agli altri, insomma, ma i messaggi sono questi, il mood di questa mattina è questo, un po' ci piace autofesteggiarci. Siete dai pezzi, ah no, pardon, si sente dai pezzi che siete strafatti. No, non è vero, non siamo strafatti. Siamo solo un po' rincoglioniti dall'influenza, nulla di più. Saluti a Ste, è lunedì, sono in coda. Mi sa che qualcuno ha proprio bisogno di un dottore a sentirvi. Un saluto anche ad Oscar e Serena che commentano esame passato, più emozionante rispetto all'altra patente. E intravedo qui invece un amico che scrive, sta sostituendo il nostro worker Brutus, perché ieri sera è venuto da noi per la patente. Un abbraccio anche ad Iron Mike, anche se sono solo il 198esimo, finalmente posso dire ce l'ho, grazie ragazzi, e grande Schiantos. Perché sono solo il 198esimo? È un buon numero comunque, puntavi al 200, dici? Un saluto anche a Luca e l'ultimo saluto a Puggio. Sono arrivato un po' tardi, ma le patenti le avete distribuite prima del concerto? Sì, in realtà sì. In tal caso me la sono persa. Che fortuna aver dimenticato le pillole di Freak, uno spettacolo. Comunque, tanto per precisare, anche a me piacciono le sbarbine. Yeah, yeah, yeah. Tranquilli per tutti coloro che se la fossero persa ieri. Il prossimo appuntamento è vicinissimo, perché è questo sabato all'Alcatraz qui a Milano. Tra l'altro abbiamo rodato il meccanismo di consegna, quindi potremmo anche cavarcela meglio. Ieri è stata la prima distribuzione, eravamo, insomma, ma ce la siamo cavata bene poi alla fine. Nessuno si è lamentato, quindi. Oh, get funky! Mr. Peter Gabriel ad entrare prepotentemente nelle vostre orecchie. Sledge Hammer. Check it out. 7:44 minuti primi e tutto sta preciso. Locatelli 1, 20124 Milano. La inizio così oggi. Quello era l'indirizzo, il messaggio. Salvate la cartolina postale. Il risultato? Eclatante, oh, esorbitante, grazie alle vostre cartoline, sì. Possiamo dire che l'iniziativa ha avuto un incredibile successo. Quest'oggi sa cosa facciamo? Reparto estero, si viaggia via dall'Italia. Cartoline dall'estero, ringraziando tutti coloro che nonostante siano uscite dall'Italia hanno continuato a pensarci. E uscite anche voi in questo momento con noi, viaggiamo, andiamo fino in Croazia, qui vicino, da quella parte lì, sì. A Porek. Vi dica subito il nome italiano di Porek. Aia, per continuare la nostra infilata di sotto zero in geografia, ce lo siamo dimenticati. E allora descriva. E allora, un bellissimo mare. Scusi, blu. Scusi, non può, sì, essere Porecia? No. No, Porecia non si può sentire. Niente, vada, mare blu. Non Poretta, no, ma Porecca. Quella è Lubecca. Non c'è Lubecca. Mare blu. Mare blu. Tetti. Tetti di una... di un istmo. Mattone. Tetti di coppi. Cielo. Coppi rossi. Cielo azzurro che ricorda il mare. Tanto che pensiamo che i colori siano un filo ritoccati. Nuvoloni bianchi all'orizzonte. Andiamo. Un bellissimo paesaggio. A salutare Manuela da Milano, non sopportando i sensi di colpa, scrive: compro una cartolina e ve la invio, saluti e baci da una rocchettara che tradisce andando in vacanza in coppia. Brava Manuela. Apprezziamo comunque. Le va di proseguire il viaggio? Naturalmente sì. Andiamo, guardi qui, andiamo in su. Su, fino a Copenaghen. Danimarca, Copenhagen. In lingua autoctona. Lega bene. Copenhagen. Me la descriva, abbiamo un quartetto. Sì, abbiamo la cartolina divisa, lo spazio della cartolina divisa in quattro parti, di cui la parte superiore è la più grande, con una bellissima fontana, tantissimi augelli. Fontana che però non mi suona nuova. Sa che anche a me ricorda tantissimo la fontana di Gallarate, proprio quella vicino a casa mia, se la ricorda? Sì, dove ce l'hanno rubata. Scriveremo al sindaco di Copenaghen e poi abbiamo una sfilza di militari o di bande, un po' militari, un po' banda imparata, un po' stile English però. Vero, perché hanno il colbacco, hanno la divisa, sono vestiti di tutto punto, sì, si sente l'influenza anglosassone. Andiamo a ringraziare Angelo di questa cartolina che la invia a Rock FM per Paolo Friccantoni. Beh, una simpatica variante. Lei non ha parenti che si chiamano? Ahimè no. Paolo no. Però no. Forse era con Paolo Antoni, Paolo Antoni. Dice. Forse è stato un innesto, involontario. Scrive Angelo per la campagna contro l'estinzione della cartolina. Eccovi un caldo saluto dalla piovosa Danimarca, da un fan zappiano. Grazie Angelo. Grazie Angelo per aver spedito la tua cartolina. E dalla piovosa Copenaghen passiamo alla piovosa Londra. Da London, dove abbiamo la cartolina incorniciata in rosso. Classica. E dentro al centro il Big Ben di Westminster. Cos'altro avrebbero potuto mettere in questa cartolina per Forse renderla più un double bass. Toglie le parole di bocca, da tanto è bravo. È il numero 12, per la precisione, che va? Diretto a Camwell Green. Ah, benissimo. Salite con noi, non c'è bisogno nemmeno il biglietto. Infatti è tutto a gratis qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Andiamo a salutare Gaia. Gaia, grazie Gaia. Senta la tenerezza di questa cartolina. Mi dica. Nel giorno del mio 18° compleanno, in un pub a Piccadilly, un maledetto bambino suona un improbabile zufoletto e voi mi mancate. Io mi sono innamorato. Gaia. Grazie Gaia. Nostra 18enne Gaia. Grazie. Grazie. Che tenerezza. Diremo di più. Grazie, grazie e ancora grazie. E tu, se ci hai già spedito una cartolina, tranquillo, prima o poi arriveremo anche a te. Perché prima o poi arriva il turno di tutti. Pane, burro e rock and roll. La trasmissione che salva cartoline. E beh, che c'è? Shadow of the cargoes, I'll take you one time. We're counting all the numbers down to